Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi un po' come la rete sta cambiando la politica, come la politica cambia con la rete, e insomma come avete visto nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, anche con il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, un po' di peso del cosiddetto popolo della rete, che non ci stancheremo mai di ricordarlo, non esiste, si è fatto sentire anche in termini di pressione su deputati e senatori. Trasmettiamo oggi, forse insomma, sentite un audio un po' strano, dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, dove naturalmente ci si sta concentrando moltissimo proprio sui temi della rete, come ovvio che sia. Come sapete, il nostro mondo, il mondo dell'editoria, è stravolto dai social media, da internet, che cambiano tutto, cambiano il processo, il prodotto, la modalità di distribuzione, e quindi naturalmente su tutto questo ci si interroga e si parla anche degli argomenti che riguardano la politica, il contatto sempre più forte, sempre più diretto tra i deputati, i senatori e gli elettori, che, lasciatemelo dire, in qualche misura cambia anche la base elettorale di costoro, dove questa base elettorale forse non è più nemmeno la circoscrizione o il luogo dove sono stati eletti, il luogo da dove provengono, ma è una base elettorale diversa, una base elettorale fatta anche appunto di rete, figure che sarebbero state di secondo piano, se vogliamo, solo 10 anni fa, non per scarsa bravura, ma semplicemente perché avevano poco modo di farsi sentire, trovano nuova visibilità e una dimensione nazionale anche grazie alla rete. Qualche esempio sotto mano in queste ore, e non solo in queste ore, naturalmente ce l'abbiamo avuto. C'è questo elemento e ne parleremo nella puntata di oggi di Voto Antonio, ma parleremo anche di altro. Questa è stata la settimana nella quale finalmente sono stati resi pubblici, dopo tanta richiesta, i dati del voto delle Quirinarie. Ben 28.000 persone hanno votato, di cui 4.700 ci pare per Stefano Rodotà. Naturalmente parleremo di questo, ma più che altro lo prenderemo come spunto per cercare di capire come può funzionare davvero il voto online, se il voto online può funzionare, se c'è anche un modo per renderlo sicuro, perché gli esperimenti fino adesso non sono stati incoraggianti. Per chiudere vi ricordo i nostri contatti, naturalmente c'è la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Voto Antonio, www.facebook.com/VotaAntonioR24, e ci trovate là, mi potete scrivere su Twitter se volete, Simone Spezia. Se siete a Perugia e se siete in giro e avete voglia di venire, iniziate ad affluire al bar Bella Vista dell'hotel Brufani, anche perché dopo va in onda da qua Federico Taddia, che è già in zona con l'Altra Europa, e tanto di microfono a filo per farvi intervenire da qua, insomma, questi comodi divanetti in pelle. Noi ci fermiamo adesso, ci ritroviamo tra poco, come sempre terremo sott'occhio quella che è l'attualità politica nella seconda parte, insomma, questa breve introduzione della trasmissione. Lo faremo con il punto di Stefano Folli, perché come sapete siamo ad un momento decisivo, si titola sui giornali stretta finale, oggi dovrebbe arrivare la lista dei ministri proposta da Enrico Letta dopo durissime trattative ieri e nella notte con il PDL. Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ah, tra l'altro, mi sono dimenticato, mi scrive giustamente Giacomo Biraghi su Twitter, mi dice: commenterete o commenterai, non so che interesse ci sia nella, specificatamente nella mia opinione, però insomma, commenterai oggi la prestazione di Letta in streaming, mi interessa la tua opinione. Iniziamo a dire una cosa, che Bersani doveva andare là col cappello in mano, perché si è fatto qualche paragone improprio, Bersani doveva andare là comunque col cappello in mano a chiedere il supporto del Movimento 5 Stelle, mentre Letta è andato là di fatto con una maggioranza in mano che non comprendeva il Movimento 5 Stelle. Poi è chiaro che c'è stato evidentemente un livello di sicurezza e di tranquillità maggiore da questo lato e... parliamoci chiaro, anche un'abilità oratoria e un tipo di concentrazione diversa. Si è detto, insomma, sono stati messi all'angolo quelli del Movimento 5 Stelle, ma non so se è vero. Loro naturalmente sostengono di no. Comunque, è il momento di fare il punto politico della settimana, altra settimana politica intensissima. Sentiamoci, parliamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Allora, facciamo così, che giro a te questa prima domanda, va, e poi veniamo su tutto il resto. La prestazione di Letta, prestazione non è male, la prestazione di Letta in streaming con quelli del Movimento 5 Stelle. Lui è andato bene, molto bene, quello per i motivi che dicevi tu adesso, esattamente quelli, è andato benissimo. Loro non sono andati né bene né male, sono quelli che sono, erano la stessa cosa con Bersani e così hanno continuato a essere con Letta. Lasciano molto perplessi tutti coloro che non votano Grillo e piacciono evidentemente a quelli che votano Grillo, ma il loro uso di streaming non cambia, cambia la percezione che noi abbiamo della performance degli altri, e certamente Letta questa volta ha dato di sé un'ottima immagine. Un'ottima immagine. Allora, nodi da sciogliere, che forse chissà se sono stati sciolti davvero nella notte, insomma ci sono questioni che riguardano naturalmente i nomi di questo governo. Leggevo tra i vari retroscena che piovono dappertutto, c'era un aperte virgolette D'Alema insiste, chiuse virgolette, che insomma vuole proprio sto ministero, però naturalmente il PDL a questo punto, insomma, no, chiede anche più peso. Sì, certo. Dunque, diciamo così, come tu sai, nessun governo di cui è stata definita la cornice politica poi cade perché si litiga sui ministeri, non è mai successo. Se succede oggi sarebbe una prima assoluta. La cornice di questo governo è molto forte, molto solida, ed è quella che sappiamo, fondata su un accordo largo tra PD e PDL. E poi il litigio sui ministri dipende esattamente da questo. È chiaro che non si può, il centrodestra non può apparire come il parente povero rispetto al Partito Democratico, quindi ci deve essere un certo bilanciamento tra i ministeri. Io credo che ci siano onestamente i margini per venirne fuori in maniera rapida e senza troppi feriti entro stasera o al massimo entro domani. Poi chi entra e chi esce adesso in questo momento non te lo so dire, ma i nomi sono quelli che sappiamo. L'idea che qualcosa di sorprendente ci possa essere da questo lato, no? Che alla fine non escano molti dei nomi grossi che abbiamo visto. No, ma non usciranno molti, non usciranno molti nomi grossi, ma nel complesso ci dovrà essere per forza un certo equilibrio fra la rappresentanza del centrodestra e quella del centrosinistra, e questo equilibrio viene deciso dalla trattativa tra i partiti naturalmente, ma anche direi sicuramente attraverso l'opera che dietro le quinte farà il Presidente della Repubblica, che di questo governo è un po' il tutore e credo che continuerà a essere il tutore ancora per un certo tempo. Ci sono questioni naturalmente interne al Partito Democratico, ormai Stefano, insomma, con questo nostro appuntamento settimanale sono mesi che parliamo della possibile scissione all'interno del Partito Democratico, mesi perché insomma ormai siamo a due mesi dal voto sostanzialmente, insomma, e quindi sono mesi che ne parliamo di una possibile scissione del Partito Democratico, che a questo punto oggettivamente sembra più forte questa possibilità, perché si parla di una cinquantina di parlamentari che potrebbero non votare la fiducia, sia i capi partito che i capi delle rappresentanze parlamentari, a partire da Roberto Speranza, il capogruppo alla Camera, hanno detto chi questa fiducia non la vota è fuori dal partito, insomma, la scissione nell'aria. No? Questo avviene sempre, chi non vota, votare la fiducia a un governo è, diciamo, l'atto legittimante, se non si vota la fiducia è difficile immaginare che si possa partecipare a uno stesso partito. Naturalmente probabilmente non assisteremo a una espulsione di tipo sovietico, no? Ormai quei tempi sono cambiati, però che di fatto stia nascendo un'ala del Partito Democratico che si sta staccando mi pare ovvio, mi pare evidente. Può darsi che ci voglia un po' di tempo, può darsi che sia un processo che finirà soltanto, si completerà diciamo in autunno quando ci sarà il congresso, ma è logico che il Partito Democratico così come l'abbiamo conosciuto non c'è più, non esiste più, e il tentativo di tenerlo insieme nelle settimane scorse è fallito miseramente, anche in quelle tremende votazioni per il Presidente della Repubblica. Quindi andiamo incontro a uno scenario diverso in cui nascerà una nuova forza di sinistra e probabilmente aggregata al SEL, e poi nascerà un partito modernizzante che farà capo per un verso a Letta come espressione di governo e probabilmente a Renzi come espressione più di partito. C'è chi la chiama la grande SEL, no? La prima ipotesi, certo, potrà essere un partito unico, potrà essere un aggregato di varie sigle, non lo so, comunque ha un bacino nel paese che adesso non so valutare in questo momento, ma se pensiamo che il SEL ha avuto un risultato non eccellente a questa elezione, no? Piuttosto modesto, però poi ci sono stati voti del gruppo di Ingroia che non sono entrati in Parlamento, con questi qui si potrebbe arrivare magari a un 12%, un 12-13%. Magari anche pezzi, anche... E magari Stefano, anche pezzi del Movimento 5 Stelle che con le famose Quirinarie ha dimostrato, no, di avere un cuore che tendenza. Hai ragione. Io ho la sensazione che tutto lo scenario politico sia il movimento sul versante diciamo centro-sinistra, sinistra e 5 Stelle. Ci sono fenomeni in atto di smottamento e di possibile potenziale riaggregazione. Molto più bloccato è il centrodestra, naturalmente, no? È molto più bloccato e quindi lì bisognerà aspettare tempi più lunghi. Che cosa vedi per loro? Ma in questo momento Berlusconi è di nuovo saldamente in sella ed è uscito questo sicuramente. Intendo questo, Stefano, dato che si continua a parlare della possibilità di offrire una sorta di salvaguardia giudiziaria per Silvio Berlusconi in seguito alla formazione del nuovo governo, quello è il momento nel quale insomma il cavaliere potrebbe uscire di scena, secondo te? Dal punto di vista politico. Non lo so, non mi lancio in una previsione del genere, anche perché questi meccanismi di salvaguardia di cui si vocifera sono molto complessi, francamente non mi azzardo adesso a ridurli in pillole, perché io penso che la salvaguardia possibile è un certo modo equilibrato di intendere il rapporto con il potere giudiziario da parte del mondo politico, del governo. Questo è già qualcosa, no? Mantenere un certo equilibrio, evitare che il potere giudiziario esorbiti dalla sua sfera, ma naturalmente questo non significa perdonare reati o altro, significa mantenere un certo equilibrio generale. Poi da questo alla salvaguardia di Berlusconi ce ne corre tantissimo e in questo momento non so prevederlo. Che esiti prevedi per quella che è stata definita da alcuni come una contrapposizione tra piazza e Parlamento? Insomma, abbiamo visto una protesta abbastanza forte, delle parole anche irresponsabili da Grillo all'inizio, che poi è tornato indietro naturalmente, no? La famosa marcetta su Roma, così è stata definita, così qualcuno l'ha chiamata. Come la vedi da questo lato? C'è un filo di preoccupazione secondo te, anche a fronte della sofferenza del paese che è evidente, non viene negata da nessuno? Ma io ho scritto anche sul Sole che Grillo stava vincendo politicamente la partita del Quirinale e poi ha compromesso tutto. L'ha compromesso fino al punto di isolarsi, mentre avrebbe potuto non isolarsi e partecipare all'elezione di un Presidente della Repubblica, per esempio Romano Prodi. Invece si è isolato e per diciamo sfogare la sua frustrazione ha messo in scena quella specie di assedio al Parlamento, poi quella incalzare quei deputati del centro-sinistra che andavano per strada o nei ristoranti insultandoli. Insomma, è stata una pagina pessima che credo Grillo abbia imboccato probabilmente anche per scarsa cultura istituzionale e forse anche scarsa cultura storica, perché in passato gli assedi al Parlamento sono sempre stati forieri di scenari molto brutti dal punto di vista poi della sopravvivenza della democrazia. Non è questo il caso sicuramente, perché poi, come si dice, no, la storia si ripete sempre, la prima volta in tragedia, la seconda in farsa. Però questa farsa non mi piace, penso che anche i 5 Stelle dovranno decidersi se essere una forza antisistema che punta solo e soltanto sul disastro nazionale, come dice Grillo, in autunno l'Italia sarà un paese fallito, eccetera, quindi o si punta sul disastro per porsi come forza totalmente antisistema, o si punta invece sulla partecipazione in forme da vedere, naturalmente, a un processo riformatore. Noi puntiamo sul successo delle riforme, perché tutto sommato vogliamo che il nostro paese sopravviva e si riprenda. Chi punta invece sul disastro totale ha soltanto quella linea, la linea della contestazione globale e generale, ma francamente è una linea molto pericolosa per loro stessi, per la capacità di tenere unito quel mondo. L'ultimo tema sul quale ti voglio, Stefano, è l'agenda di Letta, se così possiamo dire. In parte sono cose delle quali è stato già detto, no? Si parla naturalmente di imprese, si parla ovviamente di lavoro, si parla, come è naturale, di riforme istituzionali in genere, compresa la legge elettorale, riforme costituzionali. Un punto devo dire che mi è interessato, senza stare qua ad incensare il Presidente del Consiglio incaricato, è un tema che in campagna elettorale non è stato praticamente toccato, se non come contrapposizione pro contro Merkel, pro contro i tedeschi, è quello dell'Europa, cioè tornare a ragionare sul nostro rapporto con l'Europa, che è, appunto, è il vero snodo centrale probabilmente dal punto di vista politico. Sì, non c'è dubbio, è così, anche se naturalmente non possiamo essere noi da soli a modificare le politiche europee, non bisogna illudersi in questo, però non c'è dubbio che ragionare e riflettere come se fossimo realmente, lo siamo in effetti, europei, questo è un punto di modernità di quello che Letta ha detto, ed è bene che lui riesca a orientare in questo senso il dibattito politico. Per il resto io penso che questo governo deve nascere su dei punti precisi, non programmi generici onnicomprensivi, perché non è il momento. Punti precisi vuol dire una riforma della legge elettorale, alcuni sgravi fiscali, cioè un rimodulare di tutto il sistema fiscale italiano per dare un po' di sollievo alle imprese, alle famiglie, e naturalmente poi affrontare altre questioni legate al mondo del lavoro, che è la priorità essenziale, ma sempre con l'ottica di fare delle cose precise, chiare, comprensibili anche per il cittadino che ascolta un dibattito politico che troppo spesso è esoterico, e dare l'impressione che non si voglia perdere tempo, ma che si voglia affrontare sul serio alcuni problemi concreti, anche con l'ottica di battere in breccia la virulenza di quelle forze antisistema che abbiamo detto prima. Grazie anche per questa settimana, Stefano. Buon weekend. Mi scrive Antonia Cincioni su Facebook, mettete su Twitter e Facebook stralci della trasmissione, per favore, sì, con calma, nel senso mi attrezzerò a un certo punto e troverò le capacità per fare live tweeting e live facebooking mentre andiamo in onda, insomma, questo giusto per segnalare che noi ci sia una redazione pazzesca dietro questa trasmissione. Antonio, come la rete cambia la politica. Mi scrive Enrico Di Marco su Twitter: cosa c'entra Grillo con chi insulta Franceschini al ristorante? In realtà ha ragione, probabilmente erano militanti del Partito Democratico, insomma, quindi sì, è vero, oggettivamente vero, insomma, non, ogni tanto ci sfugge qualcosa, insomma, succede. Allora, veniamo ai due temi che abbiamo deciso di affrontare in questa puntata, che sono due temi ancora legati all'attualità politica di queste ore. Come sapete, ogni tanto cerchiamo di prenderci anche un po' di respiro da tutto questo, ma le cose accelerano dal punto di vista del rapporto tra la rete e la politica. Questo si deve anche al Movimento 5 Stelle, per quanto torno a ripeterlo, la mia idea è che abbiano un uso della rete al momento ancora abbastanza primitivo, perché oggettivamente poco interattivo, insomma, usano anche mezzi vecchi, anche da questo lato probabilmente dovrebbero aggiornarsi, soprattutto nel modo di utilizzare, però diciamo qualcosa sta cambiando sotto il sole, e anche per l'approdo in Parlamento di una serie di deputati e senatori più giovani, che con questi mezzi, molto semplicemente con questi mezzi, hanno un rapporto più semplice. Quindi parliamo di questo e parliamo di Quirinarie. Il voto online, i famosi 28.000 delle Quirinarie, si è scatenata un bel po' di ironia su questo, perché insomma il presidente che il paese voleva aveva preso 4.700 voti, insomma, quindi su questo c'è da dire su come gestire il voto online. Anche qua l'operazione fatta dal Movimento 5 Stelle è stata oggettivamente piuttosto primitiva da questo lato, insomma non è un sistema particolarmente avanzato. Di tutto questo parleremo. Allora saluto innanzitutto Filippo Sensi, nostro ospite spesso, vice direttore di Europa, che di questi temi si occupa molto. Filippo, buongiorno. Buongiorno a voi. Nomfup su Twitter, lo dico così perché poi insomma esplicitare l'acronimo sarebbe complicato e anche piuttosto volgare, tra l'altro. Claudio Agosti, presidente del Centro Hermes, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giovanni Ziccardi dell'Università di Milano, buongiorno. Con loro parleremo in particolare di voto online. Vi ricordo che potete commentare, potete scrivermi su Twitter oppure sulla nostra pagina Facebook Vota Antonio R24, anche per fare delle domande, per dirci come la pensate da questo lato. Allora, inizierei da Filippo Sensi. Come si diceva in apertura, l'idea è un po' che per questi deputati, per questi senatori, la base elettorale cambi, non si rivolgono più al loro elettorato tradizionale, alla loro circoscrizione, alla loro città, al luogo da dove provengono, al luogo dove prendono i voti, ma si rivolgono in realtà ad un pubblico più ampio, ad uno scenario nazionale. È così, il famoso collegio elettorale, che una volta era il punto di riferimento ultimo, estremo, per qualsiasi parlamentare, adesso si è un po' allargato, cioè in qualche modo i social network hanno dato una quarta dimensione a quella che altrove viene chiamata la constituency dei parlamentari, un po' perché gli stessi parlamentari sono più giovani, abbiamo il Parlamento più giovane, no? Con tanta enfasi e retorica spesso si ricorda, però questo sicuramente magari sarà un valore aggiunto, e allo stesso tempo a questo corrisponde un diverso modo di abitare la rete. Adesso, Simone, io non credo che, come qualcuno ha scritto in questi giorni, i parlamentari siano dei droni eterodiretti da Twitter, per cui hanno fatto quello che i troll gli imponevano, l'hashtag o chissà quanto, però che Twitter e social network entrino nel mix di chi poi deve prendere le decisioni, questo mi pare oramai evidente. Il popolo della rete ha deciso e quindi il parlamentare obbedisce. Sì, a volte anche con un po' di cortocircuito. Vedevo la settimana scorsa, c'era Enrico Mentana che aveva in diretta due parlamentari grillini, e insomma parlavano di Rodotà. Dice: ma voi l'avete mai conosciuto direttamente Rodotà? No. Allora come avete deciso? Dice: la rete ce lo ha detto. Allora, la rete ce lo ha detto. Non esiste il popolo della rete, la rete neanche esiste, Twitter non sta molto meglio, insomma, intendiamoci. Vedo Claudio Agosti che ridacchia, come la vedi? Ma vedo che, non direi la rete non esiste, la rete esiste, la cosa che dobbiamo magari pensare è che quello che percepiamo della rete dipende direttamente da chi è tecnologicamente più esperto, se è interconnesso meglio, ha più influencer, ha più capacità di creare i concetti giusti che siano virali. Di conseguenza si andrebbe in una direzione più tecnocratica, se vuoi, in cui anche chi ha potenza tecnologica riesce a portare un'influenza che poi si ripercuote nel mondo quotidiano. Dato che stiamo parlando appunto di Movimento 5 Stelle, intanto ringrazio Dario che sulla nostra bacheca Facebook, a proposito di come si fanno le trasmissioni, ha postato una foto di un one man band con chitarra, tamburo e, se non sbaglio, una serie di strumenti indefinito, compreso il tamburello. Verrei alla questione del voto online. Come si diceva, questo voto, Giovanni Ziccardi, per le Quirinarie insomma, 28.000 persone è poca roba naturalmente, però uno dice è la metà degli iscritti al sito di Beppe Grillo. La realtà è che c'è anche una questione di trasparenza di procedure, se vogliamo, no? Da questo sì, lato. È corretto, nel senso che io non utilizzerei il termine voto, utilizzerei il termine sondaggio o raccolta del consenso di un determinato parco di interessati. Per parlare di voto online occorre la trasparenza del sistema utilizzato, che qui non l'abbiamo, la trasparenza della procedura, che qui non c'è stata, e la possibilità di replicare i risultati in un'altra maniera, che è la cosiddetta verifica, che nelle elezioni tradizionali, come sai, è fondamentale. Si può parlare di voto soltanto con questi tre requisiti. Queste operazioni effettuate, che possono essere apprezzate o meno, sono delle semplici raccolte di sondaggio senza alcuna garanzia o con pochissime garanzie, quindi sono un mondo differente dall'idea del voto online. Poi è bello chiamarlo voto o elezioni perché ha subito la connessione con il mondo politico e istituzionale, quindi dall'idea di qualche cosa di importante, di concreto, ma in realtà è una semplice raccolta di consenso come avviene in altri siti, anche per altri... Un po' come quando noi giornalisti mettiamo sui nostri siti il sondaggio, in realtà esatto. Non è un sondaggio, perché il sondaggio ha delle caratteristiche scientifiche ben precise, sì, esatto. Mentre invece la roba che facciamo noi è dici sì o esatto. No, se la cosa ti piace oppure no. È una delega di fiducia in bianco al soggetto che propone una determinata iniziativa, cioè un elettore, tra virgolette, delle Quirinarie ha delegato in bianco a chi gestisce il sistema dicendo mi fido, però non ha potuto controllare nessun passaggio o processo di ciò che è avvenuto. Che è un punto centrale. Altro esperimento interessante, se vogliamo, e siamo sempre nell'ambito del 5 Stelle, interessante intendo che è curioso, anche naif, se vogliamo. L'altro giorno ho visto nel corso della procedura di espulsione di Mastrangeli, l'uomo che si è macchiato di eccesso di partecipazione a trasmissioni televisive, tra cui quella di Barbara D'Urso, c'era una deputata che ha detto... Ok, adesso potete votare, la rete può votare per l'espulsione di Mastrangeli, cliccate mi piace se lo volete espellere, oppure scrivete un commento, ed era sulla sua pagina Facebook, se non lo volete esatto. Espellere. Insomma, una metodologia curiosa. Soggetti che hanno 3 o 4 profili su Facebook, ad esempio 5, che è abbastanza comune oggi, potevano in quel caso dare 5 voti cambiando il proprio profilo. Magari lo stesso Mastrangeli, magari ce n'è una trentina e riesce a restare. Però, posso aggiungere una cosa importante, no. Nel abbiamo senso tempo, che guarda, è grave secondo me quando sondaggi di questo tipo, cioè senza alcuna garanzia, hanno un'influenza diretta istituzionale. Cioè mi spiego, se c'è da proporre un nome, allora un sondaggio può avere la sua funzione o anche una funzione politica, ma se questi sondaggi senza garanzie hanno un effetto diretto istituzionale, penso all'elezione di un deputato o alla scelta di un deputato, e quindi c'è una conseguenza nel nostro sistema, allora diventa molto interessante dal punto di vista politico, perché non rimane un semplice sondaggio, come dicevamo prima, informale, ma ha una conseguenza proprio sulla nostra struttura costituzionale, sul nostro sistema. Voglio capire proprio a questo punto come, se ci sono delle procedure diverse, dei modi diversi di procedere, cioè immagino ci siano degli esempi internazionali da questo lato. Negli Stati Uniti abbiamo sentito, no, di qualche voto online avvenuto anche a livello istituzionale, dico. Sì. Sono esempi che sono costosissimi, oggi per creare un sistema efficiente di voto online non si può gestire in casa o neppure in un'azienda, ma parliamo di progetti oltre i $40 milioni. Negli Stati Uniti sono stati fatti 2 esperimenti negli ultimi 10 anni, ma tutti e 2 sono stati craccati da hacker e da studiosi nel giro di 48 ore. Il caso più clamoroso è stato a Washington, al District of Columbia, su una base di 100.000 voti. I sistemi più efficaci oggi sono sistemi ibridi, come dicevo prima, cioè all'aspetto elettronico uniscono sempre e comunque la possibilità di fare una verifica tradizionale. Non c'è nessuno al momento che si fidi esclusivamente di una raccolta di sondaggio elettronico. In Europa ci sono 2 casi, la Svizzera e l'Estonia, però anche loro hanno basato, diciamo, il sistema su qualche cosa di fisico. In Estonia, ad esempio, una carta d'identità elettronica con un microchip e la possibilità anche di votare comunque in maniera tradizionale. Quindi l'idea del voto online puro oggi via internet, vista l'insicurezza della rete, non è al momento implementato. Questo ci dà l'idea della grande difficoltà. Non è una cosa che si fa in casa, è una cosa che richiede un investimento di decine di milioni di dollari per garantire un ambiente insicuro per una funzione istituzionale. Che è parecchio. Sto risparmiando Claudio Agosti perché mi è venuto qua per, seppur malato, mentre invece intanto vorrei coinvolgere Filippo Sensi proprio per questo aspetto dell'impatto che può avere un voto come quello, ripeto, 28.000 persone con un sistema non verificato, eppure tutto questo ha un impatto istituzionale pazzesco, fortissimo, porta anche in piazza la gente. Intanto volevo dire, giustamente su quello che diceva Ziccardi, il fatto che non ci sia più un modello puro, che le stesse Quirinarie hanno avuto bisogno di una sorta di vidimazione, autenticazione fatta da un ente terzo. Ricordiamo che sono state rifatte una volta, e quando sono state rifatte, per avere i risultati, insomma, ci è voluto un po' di tempo. Quindi anche lì poi c'era una domanda, cioè come mai per queste c'è stato bisogno di un ente terzo, insomma di una figura terza, e quelle in precedenza come sono state gestite, che poi sono quelle che hanno selezionato l'attuale classe dirigente in Parlamento. Quindi questo a dire come ci sia forse anche un'evoluzione all'interno stesso del Movimento 5 Stelle sulla questione della democrazia diretta e sulla questione delle forme di autenticazione e di controllo. Dicevi dell'impatto. L'impatto è molto forte, non solo quello tecnologico, e va bene, ma soprattutto il capitale simbolico che il Movimento 5 Stelle ha saputo mettere sul piatto della politica italiana. Cioè, a dire adesso al netto di un po' di naivete e di tante altre cose che si possono dire sul movimento, però è sicuro che sia nell'immediata imminenza del voto sia dopo il voto 5 Stelle, Grillo e anche questa enfasi della rete abbiano condizionato pesantemente non solo il dibattito e la formazione un po' dell'opinione di questi giorni, ma anche alcune mosse. Adesso diciamone una per tutte che è stato un po' un tormentone, un mantra dei giorni scorsi, quello dello streaming, su cui tra l'altro con esiti anche diversi, no? Abbiamo visto uno streaming che ha in qualche modo battezzato la forza, l'irruzione del movimento in Parlamento, il primo fatto con Bersani, abbiamo visto un po' una nemesi nella partita di ritorno dell'altro giorno con Enrico Letta. Cioè, se il primo streaming sembrava in qualche modo una sorta di processo al gruppo dirigente del Partito Democratico plasticamente, il secondo sembrava invece un'aula di esame con i professori che in qualche modo, insomma, davano i voti ai loro studenti. Ci prendiamo una pausa, c'è la viabilità, e poi vorrei anche tornare su questo tema, perché come al solito si tende a viaggiare un po' sul filo della superficialità, no? Per cui si ritiene, intendo non in questo paese, non voglio esagerare, non in questo paese, però su questi temi, per cui si ritiene che l'atto di trasparenza estremo sia la diretta streaming, mentre invece no, cioè, la trasparenza reale è lo streaming involontario, cioè è lo streaming inconsapevole, perché lo streaming programmato ovviamente condiziona l'interlocutore, cioè le persone streaming che parlano. Radicale viene chiamato, che è quello veramente interessante secondo me, quello che manda in diretta dove vengono decise le questioni reali. Per dovere, naturalmente, qualche sms che ci è arrivato, vi ricordo che potete commentare, anche dire la vostra, anche brutale, anche cattiva, il troll non ci spaventa, sia su Facebook che su Twitter, mi trovate là, Simone Spezia, oppure appunto su Facebook c'è la pagina Facebook di Voto Antonio, ci dite, fate le pulce al voto online del Movimento 5 Stelle, invece le decisioni di 10 persone chiuse nelle segreterie dei partiti vanno bene, non avete capito nulla. Rodotà ha ottenuto 4.300 voti di cittadini italiani, Napolitano è stato eletto con 6.700 voti di parlamentari, tra i quali svariate decine di condannati, indagati e rinviati a giudizio, ma siete coerenti, bravi, punto esclamativo. Vogliamo, in realtà, in questa sede vogliamo solamente segnalare, il ragionamento è questo, che è interessante l'esperimento, come ha detto poco fa anche Filippo Sensi, è un bene che il tema sia entrato in assoluto, il tema anche dell'utilizzo della rete, e va dato atto al Movimento 5 Stelle che ha contribuito a portare questo tema anche del rapporto, no, tra eletti ed elettori. Detto ciò, consentiteci qualche dubbio su questo sistema di voto, insomma, non è un ragionamento solamente di numeri, ma è un ragionamento di come viene fatto, che è quello che abbiamo affrontato esattamente un attimo fa. Voglio tornare però adesso sulla questione dello streaming, perché poi questo è un tema che abbiamo affrontato anche in questa trasmissione e siamo divertiti un po', ci abbiamo ospitato Clemente Mastella, perché non so se vi ricordate voi l'episodio in una riunione del governo Prodi a Caserta, Stati Generali del governo Prodi a Caserta, Pannella accende il cellulare e manda in diretta su Radio Radicale la riunione, e quello è lo streaming radicale sostanzialmente, sì, appunto, in tutte e due i sensi. No? È quello che funziona, perché poi in realtà lo streaming cambia quello che dici. In effetti, Filippo, Letta sembra che parlasse al paese l'altro giorno, non agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Quello intanto è uno degli elementi, diciamo, del carattere quindi teatrale dello streaming, cioè siccome tu sai che sarà diffuso pubblicamente, ovviamente cambia la grana, la temperatura di quello che tu dici, perché sai di avere altri interlocutori oltre a quelli nella stanza. Tra l'altro c'è anche un altro discorso, secondo me, di punto di vista, cioè l'idea che lo streaming sia lo zero assoluto, quindi la verità del fatto, è contraddetta per esempio dalla prospettiva, cioè a seconda di dove metti la telecamera, per intenderci, cambia il tipo di racconto del fatto stesso. Per dire, nello streaming che abbiamo visto con Letta, quello precedente, per esempio, il baricentro dell'immagine era il Movimento 5 Stelle stesso, e dietro c'erano degli altri parlamentari o altri collaboratori che in qualche modo rappresentavano una sorta di quarto stato, cioè di popolo che stava dietro il Movimento 5 Stelle, in qualche modo dando già una prospettiva un po' di parte rispetto al ping pong, alla partita a tennis dello streaming. Quindi non è vero che lo streaming è neutro o neutrale, non è vero che i comportamenti siano dei comportamenti più naturali, anzi, sapendo, come dicevamo prima, che uno è in pubblico, ovviamente parla in un altro modo, fa una lezione oppure parla al proprio elettorato, eccetera. Ci vorrebbe lo streaming appunto inconsapevole, che poi un po' è il fuori onda, no? Sì, alla fin fine sì, che poi così tante polemiche ha suscitato anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo la vicenda della trasmissione di Formigli, se non sbaglio, con il fuori onda di Favia. Allora, Claudio Agosti, siamo quasi in chiusura, ci manca qualche minuto. Io volevo tornare sul tema del voto online, perché un'altra questione che abbiamo affrontato, che abbiamo raccontato anche spesso a questi microfoni, è l'utilizzo di liquid feedback. Per semplificare per gli ascoltatori, ricordo che cos'è: è una sorta di, possiamo chiamarlo, social network per proposte legislative, per proposte di legge, che prevede l'accesso con determinate credenziali e che funziona anche con un sistema di deleghe, cioè se c'è gente più esperta di te puoi delegare queste persone a decidere per te, a votare su determinate proposte. Si deve raggiungere un determinato livello e dopo queste proposte vengono votate, si possono emendare e così via, insomma un sistema più complesso. Forse la soluzione da quel lato è più interessante, ossia l'intervento per certi aspetti nella vita interna di un partito, come nel caso del partito dei pirati tedeschi, e dall'altra parte anche nella vita di una comunità, cioè la strutturazione di una proposta di legge tramite la rete in un modo un po' più complesso rispetto al sondaggio online, ma sicuramente più efficace. Quantomeno il sistema di delega riesce a valorizzare il fatto che se ci può esprimere come comunità molto più frequentemente con un voto classico politico, si tratteranno sicuramente dei temi più di dettaglio. I temi più di dettaglio devono essere di competenza di chi effettivamente è esperto da un certo settore, e di conseguenza l'utente che ha disponibilità di voto può dare la sua delega temporanea, contestuale, a chi effettivamente ricopre per lui questa fiducia ed è esperto di questo tema. Ciononostante, non è ancora sicuro, nel senso scientifico della cosa, perché devi considerare che utilizzare la propria postazione per effettuare quei tipi di interazioni che poi avranno delle ripercussioni è come avere una cabina elettorale con qualcuno che ti sta spiando, qualcuno che può dirti cosa può fare. Considera che la tua postazione non è sicura dal punto di vista informatico, potrebbe essere compromessa e votare lei per te, piuttosto che tu potresti fare un voto di scambio molto più facile. Qualcuno viene a casa tua, ti fa votare quello che vuoi, oppure tu fai uno screenshot di quello che hai fatto. L'altro aspetto invece è che l'urna anch'essa diventa insicura. Prima Filippo faceva l'esempio del certificatore terzo, che almeno sembrerebbe un buon inizio, ma siamo ancora ben lontani da una piattaforma di voto che possa garantire una sicurezza scientifica. Chi gestisce la piattaforma in cui i voti e le scelte vengono raccolte ha la possibilità di cambiare tutto quello che viene memorizzato e quindi a rendere totalmente invalido l'espressione popolare. Perché Ziccardi, quello che diciamo, e questo ripeto non è un'offesa nei confronti del Movimento 5 Stelle, però in un minuto, quello che diciamo quando diciamo che insomma, c'è bisogno di una maggiore trasparenza, il riferimento è esattamente a questo, a chi gestisce questi dati e come questi dati devono essere gestiti in trasparenza. Lo snodo è esattamente quello, non sono i 28.000 voti, esatto, il punto, no? Lo snodo secondo me è il dare il giusto peso a ogni iniziativa, nel senso che io sono estremamente favorevole a queste iniziative di raccolta del consenso popolare, di uso di piattaforme come Liquid Feedback, di sondaggi. Io sono in ipotesi anche favorevole al post su Facebook indicando con i like o i commenti alcune questioni. L'importante è dare il giusto peso a ognuna di queste iniziative. Sono tutte iniziative che sono ben lontane da una correttezza istituzionale e da una verificabilità. Io sono favorevole sia al sondaggio sulla rivista di costume circa il cantante preferito, sia all'uso di piattaforme Liquid Feedback, però in ogni contesto concreto bisogna dare il giusto peso e comprenderne i limiti e le vulnerabilità. Grazie, noi siamo in chiusura. Fatemi dare una risposta all'ascoltatore che mi scrive: sei diventato un inquisitore del Movimento 5 Stelle. No, nutrivo delle grandi speranze sotto questi aspetti da parte del Movimento 5 Stelle e le speranze fino a questo momento sono state deluse. Nutrivo grandi speranze in termini appunto di trasparenza e di utilizzo della rete. Fino a questo momento le speranze sono state deluse. C'è sempre tempo di recuperare, ragazzi. È un partito del 25%, la legislatura può anche essere lunga e quindi, ripeto, c'è il tempo di recuperare. Io so che Claudio Cossi voleva intervenire, però purtroppo non abbiamo nemmeno un secondo, cioè abbiamo 30 secondi sostanzialmente, giusto il tempo di salutare e di ringraziare Giorgio De Luca in assistenza, Valeria Bernardi e Davide Ciocia per la parte tecnica. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Vi lascio al giornale radio naturalmente e poi il mitico Federico Taddia con l'Altra Europa in diretta da qua, dall'Hotel Bruffani, dal Festival Internazionale del Giornalismo. Noi ci sentiamo lunedì naturalmente con 9 in punto. Italiani!